Racconti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il prossimo 25 marzo, lo abbiamo ricordato più volte in queste settimane, si celebreranno a Roma i 60 anni della firma dei trattati istitutivi della Comunità Economica Europea. È un'occasione importante per riflettere sullo stato di salute e per la verità alquanto precario dell'Unione Europea in questo momento e soprattutto per cercare di individuare le strade per rilanciare il faticoso processo di integrazione, ora messo in seria discussione dal rirrompere di movimenti e formazioni politiche dichiaratamente populiste ed euroscettiche. Per questo abbiamo deciso di proporvi una sorta di viaggio, ma non per rievocare quel che avvenne in quella storica giornata del 25 marzo del 1957 in Campidoglio, ma per raccontarvi come si arrivò a quella decisione. In sostanza un viaggio dietro le quinte, in compagnia di alcuni dei protagonisti che prepararono i testi da sottoporre alla firma dei leader politici e che presero parte alle intense trattative diplomatiche che precedettero l'appuntamento di Roma. È un viaggio che vi proponiamo con la collaborazione dell'Istituto dei Beni Sonori e Audiovisivi, che ci consentirà di accedere da qui alle prossime settimane a un importante fondo documentario composto da 18 interviste realizzate negli anni 80 dalla professoressa Maria Grazia Melchionni, che attualmente dirige la rivista di studi politici internazionali, e da Roberto Ducci. Buonasera professoressa e benvenuta. Grazie, buonasera a lei. Le interviste sono state realizzate nell'arco del 1984 nell'ambito del progetto di ricerca di storia orale La Primavera d'Europa, i negoziati dei trattati di Roma in 18 testimonianze, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 11 febbraio 26 novembre 1984, sotto il patronato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma e della Fondazione Jean Monnet per l'Europa di Losanna. Spiccano tra gli altri i nomi di Achille Albonetti, direttore della rivista Affari Esteri, di Emanuele Gazzo, primo direttore dell'Agence d'Europe, di Hans van der Boegel, economista e diplomatico olandese, di Maurice Faure, membro della Resistenza francese e ministro in diversi governi, Pier Pescatore, giudice della Corte Europea di Giustizia. Tutti personaggi che ebbero un ruolo di primo piano nella preparazione del Vertice di Roma e che dunque possono offrire una testimonianza preziosa sia del contesto storico-politico in cui maturarono i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea, sia dei retroscena che precedettero la firma solenne in Campidoglio. Allora, professoressa, ci racconti un po' l'origine di questa importante ricerca? Ma si tratta del fatto che io avevo contribuito alla creazione della Società per la Storia Orale all'inizio degli anni Ottanta, di cui facevano parte De Rosa, Paolo Spriano, Paolo Brezzi, Scoppola, De Felice, che aveva lo scopo appunto di accreditare nell'Accademia questa nuova metodologia che l'introduzione dei registratori aveva reso possibile per la creazione di fonti orali. E avevo in mente da tempo di realizzare un progetto sul negoziato per i trattati di Roma, perché mi aveva molto colpito un volume apparso negli Stati Uniti di uno storico, John Campbell, proprio dedicato al negoziato per Trieste del 54. Mi era sembrato appunto uno strumento fecondo la storia orale per analizzare le relazioni internazionali. Però questa idea di applicarla ai trattati di Roma era difficile da realizzare senza i contatti necessari. Improvvisamente arrivò nella Facoltà di Scienze Politiche come professore a contratto l'ambasciatore Roberto Ducci, che era stato il numero due della delegazione italiana all'epoca dei trattati di Roma. Quindi un ruolo importante, direi. Un ruolo molto importante, e aveva scritto nella sua intensa attività pubblicistica. Ducci aveva scritto molto su quei negoziati, ma non tutto naturalmente. E allora pensai di proporgli di realizzare questa ricerca. Sì. Lui non aveva mai sentito parlare della storia orale e gli sembrava così una cosa molto curiosa e forse anche un po' poco seria di voler far scrivere la storia agli altri. Ma si rese poi conto della delicatezza e dell'importanza della costruzione di queste fonti e ed era entusiasta di partecipare a questa rievocazione dell'intero negoziato. Mm-hmm. Anche la scelta dei personaggi, immagino, fu importante. Sì, infatti, e devo dire fu molto facile con lui, perché nel giro di un paio di settimane avevamo l'elenco completo delle persone che avremmo potuto intervistare. Ora, i ministri politici più importanti che avevano ispirato e animato questo negoziato erano, ahimè, morti. Monnet non c'era più, Mollet non c'era più, non c'era Adenauer, non c'erano né Bèche né Beillin, negli altri. I padri però dell'Europa, c'erano... i padri dell'Europa, professoressa. Esatto, quelli erano già scomparsi, perché il progetto viene concepito nell'82, realizzato poi nel corso dell'83-84. Però c'erano i loro più stretti collaboratori, ad esempio per il Belgio c'era Robert Rothschild, che era stato il capo di gabinetto di SPAC, e c'era anche il barone Smaïd Dupuy, che era stato il capo della delegazione. Per la Francia, accanto a Marjolin, che lei ha citato, c'era anche Maurice Faure, che era il segretario di Stato per gli affari esteri, e poi c'era Émile Noël, che era, diciamo, l'uomo di collegamento fra Monnet e Mollet. Quindi Ducci conosceva molto bene questi, nell'individuazione dei personaggi, il suo ruolo è stato centrale perché conosceva molto bene questo tipo di relazioni. C'erano tre uomini di Monnet nel comitato SPAC, c'era Noël. Noël non era nel comitato SPAC, ma diciamo teneva i contatti, certo, con Stamm e Pierre Uri. Quindi tutti personaggi importantissimi. Pierre Uri soprattutto, che fu coautore insieme a von der Gröben del famoso rapporto SPAC presentato a Venezia. Ecco, io però le vorrei chiedere, professoressa, anche un'altra cosa, perché l'obiettivo principale in realtà di queste trattative non era il mercato unico, ma era quello di superare il fallimento della CED, quindi ci muovevamo in un contesto che poi ha portato al mercato unico, ma non era detto che fosse... Assolutamente no. L'idea di Monnet, la proposta di Monnet era di creare un'altra istituzione di portata limitata, per la quale fosse possibile fare delle deleghe di sovranità, proprio per non interrompere questa strategia che la CED sembrava aver accantonato. Però soltanto con un oggetto limitato sarebbe stato possibile, secondo Monnet, superare l'atteggiamento del Parlamento francese, che si era mostrato molto nazionalista. Nella ricerca atomica la Francia aveva un anticipo rispetto agli altri paesi, avrebbe potuto esercitare una leadership e si sarebbe potuto procedere. Erano stati i paesi del Benelux che avevano nel loro memorandum, diciamo, aggiunto questa prospettiva e dichiarato di non voler marciare se non ci fosse stato anche qualcosa sul piano economico che permettesse loro di superare quelle situazioni di ristrettezza dei loro mercati che ne avevano tanto penalizzati nel periodo tra le due guerre, certo, e che avevano già cominciato a superare con il Benelux, creando il Benelux, ma non sarebbe stato sufficiente. E poi c'è un altro elemento non da poco, che in quegli anni succedono cose importanti: la guerra in Indocina, l'invasione di Bù dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica, e dunque ci si muove in quel contesto storico-politico. Sì, però non è, mentre diciamo precedentemente era il timore di eventi esterni che aveva gravato sulle iniziative di collaborazione intereuropea, Stalin era morto, quindi il più grande pericolo era accantonato. E invece quello che si sentiva molto, e le testimonianze sono precise su questo, era il bisogno di portare avanti il disegno di riconciliazione fra i popoli europei e un clima di pace che potesse garantire anche le istituzioni nazionali che erano state appena ripristinate nei paesi che uscivano da regimi dittatoriali. Questo in De Gasperi era grandissima la preoccupazione per le istituzioni, no? Per la stabilità delle giovani istituzioni repubblicane italiane, certo, l'idea di ancorarle ad una struttura europea. Quindi, e questo anche per la Germania. Quindi c'erano dei fattori geopolitici non da poco. Certo. E quindi c'è questa doppia iniziativa, ma il mercato comune per Monnet, ad esempio, durante tutto il negoziato rimane qualcosa che sarebbe stato disposto a sacrificare e comunque a rinviare in un momento successivo, perché era veramente convinto che al Parlamento francese non sarebbe passato e che la Francia non sarebbe stata in grado di liberalizzare così come questo mercato avrebbe presupposto. E di fatto furono le vicende esterne che spinsero Mollet a vincere le esitazioni. Mollet era molto sovranazionale, aveva votato a favore della Comunità Europea di Difesa, era arrivato fino quasi alla scissione del Partito Socialista per questo voto a favore della CED, era molto sensibile all'ispirazione di Monet, però aveva contro il Quai d'Orsay, ad esempio, aveva contro la maggior parte dei parlamentari. Ed è questo, professoressa, è questo, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, ma avremo modo di riparlarne nelle prossime settimane, e questo è il contesto in cui si collocano le interviste. Ecco, ai nostri ascoltatori diamo dunque appuntamento alle prossime settimane, quando attraverso la selezione che condurremo anche grazie al suo aiuto potremo far ascoltare alcune di queste importanti testimonianze. Grazie professoressa e buona serata. La ringrazio, arrivederci.